Quindi tutto questo viene interrotto, viene rovesciato, e questo vuol dire che c'è un passaggio storico, un passaggio epocale. Ma è sicuramente l'articolo primo della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, quello che meglio racchiude l'ideale dei padri costituenti e in particolar modo quello del gruppo dei Dossettiani, come spiega il nipote Don Giuseppe Dossetti Junior. Il lavoro vuol dire responsabilità. Ecco, cioè questo è uno dei valori della Costituzione, dei primi articoli, cioè tutti siamo responsabili. È esattamente il contrario dello Stato liberale, lo Stato gendarme, il quale appunto fa neanche da arbitro, insomma, ecco, detta le regole e poi dopo vince il più forte. La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio del 48. Giuseppe Dossetti ritiene di aver terminato il suo ruolo nella politica italiana e decide di non ricandidarsi alle elezioni del 48, ma il Papa interviene personalmente. Ha paura che la corrente più progressista della Democrazia Cristiana, orfano del suo leader, si possa dividere dal suo partito, e Pio XII non vuole che si rompa l'unità dei cattolici. Dossetti accetta il divieto e si ricandida all'elezione dell'aprile del 48, dove la Democrazia Cristiana ottiene una vittoria schiacciante. Questa è per lui un'occasione per realizzare tutte le riforme necessarie al paese, rompendo l'egemonia dei poteri forti nelle decisioni italiane, dimostrando alla classe lavoratrice che il laburismo cattolico è una risposta efficace al comunismo, come racconta il politologo Paolo Pombeni. Naturalmente De Gasperi è preoccupato del fatto di garantire stabilità alla democrazia, a quella che è stata la svolta democratica. Per questo ritiene che non si possa entrare in conflitto con le classi dirigenti, perché De Gasperi è, se posso usare una battuta, un post-fascista, cioè visto che i fascisti hanno vinto proprio perché a un certo punto i gruppi dirigenti, per paura della rivoluzione, si sono buttati in mano a Mussolini. Dossetti ritiene che il primo problema sia quello che anche queste classi dirigenti, chiamiamole così, conservatrici e chiuse, saranno costrette in qualche modo ad accettare il grande cambiamento sociale. Tra il 50 e il 51 Dossetti accetta per la seconda volta la vice segreteria della Democrazia Cristiana, e quel periodo sarà un momento di grandi riforme per il paese, come testimonia lo storico Enrico Galavò. Se la riforma agraria è stata attuata, è stata attuata anche in parte grazie a lui e al suo impegno. Se la cassa per il mezzogiorno, prima delle storture che poi ha avuto, è stata messa in piedi, ciò è dovuto anche e soprattutto a lui. E ancora la legge stralcio sulla riforma fondiaria, la partecipazione al settore dell'energia con Enrico Mattei, riforme che portano al miracolo economico italiano, come racconta Ettore Bernabei. Se l'Italia ai primi degli anni 60 è diventata il quarto paese tra i sette più industrializzati del mondo, quindi più ricchi del mondo, lo si deve in buona parte a Dossetti, che impostò subito un modello di sviluppo di una società che correggesse gli errori e le disfunzioni già evidenti del sistema capitalistico. E a questo punto Dossetti decide di lasciare la politica. È il momento dei grandi scontri tra cattolici e comunisti. Anche il Vaticano e la situazione internazionale non lo aiutano a esercitare la sua volontà di dialogo, ma non di mediazione. Sa che se non si rinnova la Chiesa non si possono porre le premesse per un rinnovamento civile, morale e spirituale della società italiana. E così nel 52 si trasferisce a Bologna per proseguire il suo percorso religioso, vicino al cardinal Giacomo Vercaro, vescovo della città. Nel 52 inizia la formazione di una comunità spirituale, la piccola famiglia dell'Annunziata, e l'anno seguente fonda il centro di documentazione che si occupa di studi sociali, politici e religiosi. Nel 56 si candida per obbedienza al vescovo a sindaco di Bologna, elezioni che perde contro il comunista Giuseppe Dozza, ma che lascia